cioccolata. Allora da giorno apro io, hai capito? Ah, è fuggito il gatto, è vero. Ma il gatto sai quando scappa, quando è in calore, solitamente, quello di mia madrina scappava e tornava sempre incinto, poi gli faceva i gattini a casa, gli metteva una scatoletta, gli faceva i gattini e dopo doveva trovare sempre qualcuno a darli. Siccome c'è la testa fra le nuvole, invece di guardare a lui, guarda il telefonino. Allora, c'è come. Vabbè, se te lo spiegherò in verticale che qua non fa. Davide. Poi gli sottonti, gli otti, ma non sottonti, a tutti gli manca solo la parola, buongiorno, buongiorno, tutti noi qua, e io voglio dire la pappa, gli dice miau, fa miau, fa un verso diverso, no? Quando so che mangiare, che ti chiede da mangiare. Li metti da mangiare, cominci a mangiare, e poi gli dici di nuovo miau, sembra che ti stia ringraziando. Ma sta lì la vedete, un film, è un coso, un documentario al televisore di pesci, di mare, cos'è, oh, si è messo sul tavolo, non si è mosso di un millimetro, l'ha fissato al televisore guardando i pesci. Adesso intelligente, ma va come intendete la moto della padrona, subito dietro la porta. Ma io sopra muglia, non si muoveva di un millimetro, con lo sguardo fisso sopra il televisore. Prima si divideva, i pesci muovendosi, sennò... non sta comprando tutto, via. Sembra così, ma sono intelligenti, tutti poi agli anni che ha, e quando io gli faccio un gesto, per giocare, subito mi dà retta, subito gioca con me. Lo posso immaginare, sono molto intelligenti. Capo, riconoscono molti padroni, io me ne sono accorto, ecco. Sì, sì, ma tutti però, io per dire a tutti lo pulisco io, la mattina lo pulisco. Cos'è? Vabbè, mettilo, spero bene dopo metto gli occhi. Facciamo scapolare già. Ho detto che c'è una modulazione proprio limpida, tranquilla, cioè proprio no. Non si intende la mosca volare. Meglio, perché se vuoi correre la propagazione non ci vuole più di nulla. È meglio che sia così. Comunque, oggi ero fuori a portatore 65, Salghero, cambio. Io? No, io, Salghero 5. Buono, già va bene già. La radio troverà bomboletta. Il portatore se non è favorevole, che è quello, per quello che va bene. Perché il portatore spero non è favorevole per lui. Non è favorevole no. Kappa. Comunque. Tu pensa che Gianluca mi arrivava con l'antenna sul tetto, lo stesso segnale. Lui ha l'antenna sul tetto, e mi arrivava con lo stesso segnale, che gli arrivavo io dalla macchina. Ma lui, diciamo che da più in alto, c'è il palazzo alto, io ero in macchina, ero in massa. Massa. E siamo fermati per accompagnare questo amico, cosa? Sotto casa sua e... Allora, accompagnati, ci siamo fermati un po' lì e mi sono messi a parlare. E loro sono andati al bar e io mi sono messo a prendersi i gelati, io mi sono messo a parlare con Gianluca. Eravamo a Pari, diciamo. Comunque arrivò, c'era chiaro Gianluca, e arrivava come a Sassari, non c'era nessun problema, la voce era chiara. Poi a un certo punto mi ha detto, non ti sento più, già, non ti sento più, fosse alzata la propagazione, qua è un casino. E allora ho dovuto spegnere e acceso lo stereo. Ma sai che ho scoperto la differenza, che cosa c'è tra una 4 ottavi e un quarto d'onda? 4 ottavi? 4 ottavi volevo dire. La differenza è... E che cos'è? C'è una... l'ho sentito io quando ho fatto le prove. C'è solo un piccolo particolare, c'è la radio, è un piccolo diverso, ma c'è un piccolo che porta la radio, la... però i segnali più o meno sono uguali, con un quarto d'ora, c'è cambiato la trama, i segnali sono 5. Io sento sempre un baffetto Antonello di Ussi, e non so come stia uscendo, però anche Alghero arriva una bomba. Ma cosa sta facendo? Una energy. Ehi, ma il fatto che lui è in alto, un bel sicuramente è per quello. Ah, arrivava benissimo. Non quella, non come l'arrivo, dell'altro, dell'altra, capito? E quale buona? Quella che aveva più, quella a strisce, tipo manico di cubo. Quella lì è buona, quella pompa un bel. Avanti. Certamente sì, sì, tu sai come sono. Sono agronometro, anche su agronometro mi devo cavare, deve essere il temporizzatore che dopo un certo tot di minuti scatta. Lo facevo anche con la Omicron. No, io c'ho praticamente pago 20 euro, faccio le telefonate che mi piace, ci sto quanto mi piace, ci sto sempre 20 euro. Deve essere telefonata libera. E io devo restare due ore, sto due ore. Però io posso passare quel dato numero di ore, perché c'è un dato numero di ore che mi pare che siano una cosa che sono buttate 5.000 ore, una cosa del genere, che non ne sorpassi mai. E se tu sorpassi quel dato di ore devi pagare oltre quelle ore lì, capito? Lo lascio normale. No, non c'è una porta, già, io vedo. voce benissimo, lei ha voce, eccolo con un buon microfono, diretto a un buon botto. Noi lo facciamo bene con un live, però Antonio poteva andare con... vabbè. Cappa, cappa, allora glielo regaliamo una volta ci per vicino, vai. Si sentono parlare, ma non è che ci sono quei rumori, a me mi danno fastidio quei rumori che ci sono nell'aria, cazzo, quelli rompono un bel palco. FM sono? Questi? Li ho contattati io. Sai, vabbè, stanno facendo il loro QSO, dai. Che sono tedesche? Oggi... ad Alghero stavo aspettando che scendesse questo amico, sono avvicinato a queste spagnole e mi hanno detto se gli potevo dare un passaggio all'aeroporto che mi pagavano. E come faccio? Siamo già in 4, 5 minuti, mi ha detto, accompagni lui e poi ritorni qua, sì, zittati, le bagagli, Giuliani che accompagnava Eddie, ma l'ho fatto pure in dinamico volendo, perché avevo richiesto di uscire la testa, avevo fatto di dinamico, cosa faccio più fare a partire la mia moglie, e da figuri che la fare di banda in giro, e vado a fare la banda, no, ho detto non possibile. No, erano tutte donne, mi colpa. Che carine, che tre donne erano. Fai che bello. Sono qui con la centrale a Tuttino. Tipi di gomma. E ci ho fatto, già. Sì. Ci ho fatto anche la poltrona, lo sai. Una poltrona per quella rossa che ce l'avevo pure, me la sono portata qua, a me no. Sì, qualcuno chiamando l'Italia. Aspetta che fa. Stazione Michele in Germania. Ah, io sono in Italia, allora, grazie che... Yes, Italia. Grazie, ma scusate. Yes, Italia, quasi da un gioco, eh? Turchia, avanti, avanti. Turchia, Turchia, Turchia. Allora, cazzo, ragazzi. Mi sono che bisogna di indurre. Dai, Italia, Cancino, buongiorno, buongiorno, cari suo figlio di se scopano, eh? E il suo figlio di se mi sono fiscale, eh? Faccio un attimo in solo, che mi sta alzando. Solio, Ito. Achtung, Germany. Parlo il tedesco. C'è l'amico che parla l'italiano, dai. Avanti l'amico che parla italiano. Anche un po' di tu che sei stato un secco. Taglio adesso. Italia Capo, buonasera capo. Spazzaga. Mi scaglio anche spesso in Italia. Italia sproco, eh? facendo il coso cittadino del PMR. La voce è proprio come in verticale, qua è proprio pulita, non dare realtà a nessuno che va benissimo. Non ti ruba tu casa a nessuno. Lui è un presidente, non è unidente, è presidente, capito? Zaffa, lo so, come l'ho visto, cazzo, me l'ha fatto vedere per qua stasera, cazzo, ho detto, vai questa cosa, attrice, dammelo qua, veloce, veloce, dammelo qua, me l'ho portato via, me lo provo subito. Ah, visto, Pierpaolo, è stato veramente in gamba, ha fatto questo regalo, almeno c'è un parecchio come ti si dopo. Io spero di sì perché mi ha dato anche una conferma stasera all'assistenza sociale, mi ha detto mi porti quella questione là e lei c'è pronta una settimana per iniziare nuovamente a lavorare. Che Dio, eccoci. Lavoro buono. Gamba, Alberto. Ma fisso? Gamba. Già va bene allora. Non c'è problema. Va bene. Subane. Almeno c'è qualche cosa. Sono matto, almeno loro si sono interessati. Voi come ritiro, come dovrebbe fare quella questione là, richiamo 1, 2, 3, 4 e andiamo a cena, capito? Vi invito la cena. E dice, ma non c'è bisogno, là. Non ti mettere problemi. Ricordati che se noi ti regaliamo una cosa, non è che vogliamo che tu ci restituisci il piacere. Noi la regaliamo perché la vogliamo regalare, basta. Perché ci va bene così e basta. Cambiare, non ho capito, è un favore che mi ha fatto e io sto ricambiando, ha capito, non nel senso, però nell'altro senso, mi piacerebbe ricambiare così, ha capito. Dammi 10 minuti e sto arrivando, dai. Ho capito. La batteria ne hai? Batteria? Che batteria? La nuova Vosco, che ho? C'è solo questa che c'è questo microfono. Nuove Vosco deve avere, no? No? Quelle quadrate ci vuole, la nuova Vosco. No, no, già, non ne ho di quelle. Io non ne ho preso di riserva, non ne ho più, cioè ce ne avevo ma le ho tutte finite. Provo a controllare ma mi pare che non n'aggio. Attenzione sulla frequenza, mi ascoltate a me piccolino? Questo è quella del mio, ma già me la ricompro io. No, no, lascia stare, lascia perdere, non ti preoccupare, me la prendo io domani mattina, capito? Con calma. Ma non lo faccio stasera. Faccio bello ricambio, c'è la benzina. Adesso guardo, là, sono sicuro che non ne ho, però può darsi che qualche luna e mezzo, se c'è, la loro non c'è problema. Per me ho una cura, ne ho. Questa è una cura buona. La misura è domani me la prendo, non c'è problema, lasciate perdere, già hai capito, me la compro domani mattina, hai capito? Okay. sei in viaggio oppure sei fermo con il rimorchio? Cambio. No, sono fermo, sono fermo, ho finito, dai. Capito, mi hai conosciuto, ho finito, sono fermo. Non riesco a capire il tuo, Ah, Mamma mia, raga. Qua non si può modulare, Anto, non si può modulare quando ci sono questi, capito? Ma cosa pensi che stavo facendo? Che stavo sbloccando la batteria dalla testa, là. Ah, beh. Viaggio. Vabbè, allora, cosa faccio? Vengo oppure no? Vieni, là. A piedi però vengo, mi già. No, non ti credo in macchina, perché sono suonato. E allora lascia bisogna, bisogna a piedi. Ma non è che siamo lontano, ma... Lontano, è vicino. Se te la senti, io non mi sono capito questa batteria ancora molto. 5 minuti sono già. È da 9, 3. Quando vedo ci sono. No, riesci, ecco, quando vedi, quando vedi ci sono. Ce la risentiamo alle prossime, anche quando vuoi, lo sai, siamo sempre qua, eh. Io parlo, ce la vedi, se capita così mi sento dietro sempre, dai, non c'è problema. Buon proseguo a tutti, alla prossima puntata, ciao. Ciao, metti qualche fotografia nel coso, almeno ti vedo chi sei. Sardegna sei tu. Ehi, ma c'è la mia fotografia, dove siamo tutti gli autisti, e la fotografia degli autisti, dove ci sono tutte le cose. Hai visto la cena? Lì ci sono anche io, ora la maglietta bianca, seduta in terra, con i capelli rasati. A gaffa gaffa. Ok, Oh, yeah. infatti. Io gli ho detto che c'è, la prolunga, quello dovrebbe essere già cominciato, allora normalmente. Aumenta il cursore, c'è il cursore di giallo davanti, aumenta, lo aumenti al massimo. Al massimo? Sì, così guarda. Niente. Scappa di Rogero, attenzione Pierpaolo, Pierpaolo, cioè vai copiando qua la stazione di Lilioncino, cambio. Va bene, tutto K. K, va, già va bene così che va. Ok, ok. Siamo se siamo alla gamba sulla... Ehi, la cazzo, lo sai che cambiamo quella che ho fatto adesso, con forti, la mattina, con poveri. Gamba. Sentiamo domani, se coincide, domani sera, se coincide verso le 3, le 4. C'è domani mattina? Domani mattina c'ho già, hai capito. Poi domani, prima di scendere giù all'Alghero, ci sentiamo, capito? Ciao ciao, buonanotte, soddisfatti, da, va benissimo. Ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, ma domenico è chiuso, ah? Ha chiuso, ha chiuso. Buonanotte Leoncino, meno male che adesso esci forte, sono contento. Ciao ciao ciao ciao, grazie. Oh. Ciao ciao, buonanotte. Attenzione Domenico, Domenico, ci sei su canale 21, cambio.